Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Io sono Federico, ho 9 anni, o meglio, tra un mese avrò 9 anni, e non riesco a pensare ad altro se non a quello. Io invece sono Andrea, amo molto le lezioni di storia, ma oggi mi tocca inglese. La seconda ora ha inizio. In coro salutiamo l'ingresso della prof. Good morning. Io sono Federico Bertolucci. Io sono Andrea. Frequento la classe quarta elementare Anna Frank di 9 di Modena. Gioco a rugby, seconda linea Andre Patrovici. Sono un ballerino di hip hop. In questi ultimi tempi, più o meno per tutta l'estate, c'è stata una parola che è ritornata come ossessivamente nelle trasmissioni che ascoltavo, nei programmi che vedevo alla TV e anche parlando con una persona che non parlava questa lingua e che quindi con cui parlava inglese. La parola è inspiring. Anche chi non conosce bene l'inglese più o meno riesce a capire di cosa significa. E il dizionario grosso modo dice così: inspiring in italiano significa che ispira, entusiasmante, interessante, ispiratore, questa è la cosa più semplice, oppure illuminante. Ecco, a un certo punto, mentre questa parola continuava a girarmi nella testa, ho capito che questa era la definizione perfetta per spiegare quali sono i motivi per cui scegliamo alcuni dei racconti che ci arrivano e non tutti, per cui moltissimi racconti che arrivano hanno una sorta di piccolo terremoto dentro di me, dentro Tiziano che li legge, perché hanno quell'effetto lì, che hanno come qualcosa che ti illumina, che ti fa capire qualcosa che magari non avevi capito o semplicemente che te lo fa vedere da un punto di vista da cui non l'avevi mai visto. Ecco, quest'anno cominciamo come l'anno scorso, è la seconda stagione di Voi siete qui. Da qui a giugno racconteremo 215 storie. 215 storie di persone che hanno semplicemente voglia di mettersi al computer e raccontare un episodio della propria vita, in una pagina. Un episodio qualunque, ma che in qualche modo sia illuminante o ispiratore. Voi siete qui, @radio24.it. Noi abbiamo, ecco, dire che abbiamo passato l'estate leggendo i racconti che sono arrivati forse è tanto, però direi che questi 400 racconti io e Tiziano ce li siamo smazzati, non ce li siamo divisi, li abbiamo letti proprio 400 io, 400 lui. Continuate a scrivere perché noi continuiamo a tracciare la mappa di questo programma, continuiamo a raccontare le storie, continuiamo a raccontare le vostre storie. Sono le 16:07, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, è lunedì 3 di settembre del 2012, a Milano piove, credo in tutta Italia piova, e noi siamo qui. Buongiorno a tutti e ben ritornati, c'è stata una pausa estiva e adesso no, nel senso che oggi ricominciano praticamente ufficialmente tutti i programmi di Radio 24 e ricominciamo anche noi. Ricominciamo con una storia che, proprio perché è un caso, proprio perché è la prima storia di oggi, è una storia doppia, cioè racconta la storia di due persone e non una, ma a breve capirete il perché. Abbiamo sviluppato nel programma che sarà grosso modo lo stesso, per cui appunto ogni giorno raccontiamo la storia di una persona, ogni giorno una storia diversa. Abbiamo cominciato un gioco insieme al gioco della mappa. Sapete che se andate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui, trovate dei pezzi, praticamente dei pezzi della puntata che potete ascoltare. Oltre al podcast trovate la foto che racconto, che è più o meno il ritratto che continuiamo a chiedervi di voi che scrivete la storia. Trovate addirittura Margherita, questo me lo confermi, siamo sempre noi, io, Margherita, Tiziano Bonini, Stefano D'Andrea, siamo sempre noi. Margherita, c'è il link alle canzoni addirittura, giusto? Ufficialmente le canzoni che voi sentite, che mandiamo ogni giorno, da quest'anno le trovate sul sito, cioè sulla pagina di Voi siete qui, sul sito di Radio 24, linkabili, quindi ci cliccate sopra e parte per lo più un video di YouTube, immagino. Ok, ed è così anche da oggi. Insieme a questo, insieme alle canzoni, insieme al pezzo di storia, alla foto, c'è questa mappa che stiamo componendo dallo scorso anno. Ed è semplicemente una cartina dell'Italia su cui ci sono tutti dei piccoli punti, dei punti rossi, lì sono blu, ma facciamo finta che siano rossi, che sono le storie che ci stanno arrivando. Noi continuiamo questo gioco, ma ne iniziamo un altro. In realtà non è un gioco, perché è una cosa che noi facciamo ogni volta che leggiamo le vostre storie e che le prepariamo per il programma, ed è trovare una specie di parola, cioè un significato a ogni storia, una parola chiave, una parola che racconti tutta la storia di quella puntata, intorno a cui costruirci appunto tutta la puntata. Questa sarà una sorta di dizionario che affiancheremo alla mappa, per cui ogni giorno cercheremo di dare una definizione della storia che stiamo raccontando. Se avete voglia di partecipare, se avete voglia di immaginare anche voi un'ipotesi di piccolo dizionario, quindi di piccola definizione della puntata che state ascoltando, 349-238-6666, era da un mese che non lo dicevo, stavo per dire sparare un 348, 349-238-6666, voi siete qui, chiocciolaradio24.it, non hai capito quale numero, il 349-238-6666, c'è sempre un profilo Facebook del programma che è Voi siete qui di Radio 24 e c'è anche un profilo Twitter del programma. Andiamo alla storia. Abbiamo già raccontato fin troppo. Andiamo diritti raccontando una storia che parte in realtà dallo scorso anno. Perché a luglio noi abbiamo ricevuto questa mail che vi leggo brevemente. Ciao a tutti, anche se vi seguo da tempo, ci siamo conosciuti il 5 giugno 2012, l'attimo in cui succede qualcosa, si chiamava la puntata. Grazie Margherita per la cortesia e la comprensione data in un momento difficile. Una gentile voce sconosciuta ci ha rallegrato. In diretta Matteo ha chiesto che cosa si fa sotto una tenda tutto il giorno essendo terremotati. Forse qualcuno di voi comincia a ricordarsi di cosa sto parlando. Molto da lavorare, tante cose da fare, organizzare, decidere, muovere. Difficile la notte quando il corpo è stanco ma la mente ancora elabora brutti ricordi ancora troppo vicini. E da qui noi siamo partiti. Quella notte, dopo la diretta Radio 24, io e mia moglie Lina l'abbiamo dedicata a raccogliere piccole gocce di storie da Federico e Andrea, i nostri figli, che altrimenti chissà, sarebbero andate perse o modificate. E questi sono i loro racconti. Ecco, spero ve la ricordiate la voce di Stefano, che era il protagonista di questa storia, che noi sentimmo pochi giorni dopo che avvenne il terremoto in Emilia. Lui raccontò la sua storia, ma poi ci raccontò soprattutto la storia di loro sotto una tenda. Questa storia che raccontiamo oggi, questa doppia storia, è la storia dei suoi due bambini. Io sono Federico, ho 9 anni, o meglio, tra un mese, il 29 giugno, avrò esattamente 9 anni. Non riesco a pensare ad altro se non al mio compleanno. È strano, sento un desiderio irrefrenabile, come se non avessi mai avuto un compleanno tutto mio. La risposta, come dice mio padre, è la consapevolezza di essere a metà del guado nel raggiungimento della maggiore età, la profonda, intima considerazione di avere già il bicchiere mezzo pieno. Non lo so, probabilmente è così, se lo dice papà. Io da grande voglio fare lo scienziato, perché sono bravo in matematica. Della matematica mi piacciono le operazioni, perché alcune sono facili e alcune difficili. Anche questa mattina a scuola il test di aritmetica ha dato ottimi risultati. In matematica vado forte. Ho finito prima del tempo. La tranquillità del sicuro buon voto mi riporta subito ad immaginare la mia imminente fantastica festa. Ripongo le matite con il pensiero leggero di chi avrà presto la bellezza di 9 anni. E scusate se è poco. Improvvisamente però qualcosa sfugge. Le mie matite sono imbizzarrite. Si rifiutano di entrare nell'astuccio. Fuggono violentemente insieme a gomme e pennarelli colorati. Mi accorgo però che non sono loro, è il banco che trema, è la scuola che si muove, è la terra che è impazzita, è il terremoto. In questo martedì 29 maggio guardo i miei compagni. Siamo tutti sotto ai banchi. Ci troviamo raggomitolati con la paura che ci attanaglia. Siamo come ricci, chiusi dalla paura. Sono in mezzo alla classe di queste scuole elementari di Novi di Modena. Un solo giro di testa mi permette di vedere le facce dei miei compagni. Qualcuno piange. Io no. Io non devo piangere. Ho già il bicchiere mezzo pieno. Tra un mese ho 9 anni. La maestra Laura, anche lei rannicchiata sotto la cattedra, ci sorride. Vuole tranquillizzare. Vorrebbe abbracciare tutti. Cavolo, quanto vorrei essere abbracciato in questo momento. A volte essere l'ultimo della fila è piacevole. Puoi con maggiore copertura tirare le palline di carta ai compagni. Chi non l'ha mai fatto in vita sua alzi la mano. Io sono Andrea. Amo molto le lezioni di storia, ma oggi mi tocca la lingua straniera. La seconda ora ha inizio. In coro salutiamo l'ingresso della prof d'inglese. Good morning. Io la storia mi è cominciata a piacere, diciamo, già dalle elementari. Mi piace soprattutto perché così capisco alcune cose della vita di tutt'oggi. Da grande non ho idee molto chiare, perché devo ancora decidere, ad esempio, dove andare all'università. Sono un po' indeciso, ecco. La professoressa Mrs. Ricky a me piace, è molto British, come dice mio padre. Gli inglesi mi sono simpatici. Nella storia hanno sempre avuto un ruolo vittorioso, salvo però contro gli antichi romani, e noi siamo i loro diretti discendenti. Forse anche per questo la lingua inglese mi piace, perché da noi le hanno prese. La storia, tutta la storia è bella. Mi fa volare immaginando di essere al centro di ogni grande evento. La storia mi emoziona ancora di più vivendo in questo piccolo, noioso paese emiliano dove non succede mai nulla. Qui le battaglie più memorabili sono quelle con le palline di carta. Ecco, ne sto raccogliendo una da questo vecchio consumato pavimento delle mie scuole medie. Chinandomi cerco quel piccolo proiettile di carta. So già chi colpire. Sarò preciso come un pilota della RAF. La mano cerca la munizione di carta, ma le dita non la raccolgono. La pallina si muove per conto suo. I nervi captano una vibrazione dal basso che sale fino al cuore. Alzo la testa. Tutto gira. Non succede mai niente in questo paese, ma oggi, martedì 29 maggio 2012, sta avvenendo qualcosa di troppo grande per tutti noi. Ero in classe con i miei amici, avevo appena finito la verifica di matematica e stavo aspettando la ricreazione. Dopo un po' è venuto il terremoto, tremava tutto, i rumori delle matite che cadevano, il banco che si muoveva e si spostava. Era finita l'ora di geografia, è entrata la prof di inglese, prima di tutto ci siamo preparati e dopo ci ha detto: bene, oggi ci sono interrogazioni. E all'improvviso una scossa ha cominciato a muovere tutti i banchi e l'aula e non capivamo cosa fosse. Si cercano Federico e Andrea, si cercano nel cortile delle due scuole, si cercano nella confusione, nel panico, in mezzo a pianti e urla. Uno adora ballare l'hip hop, l'altro da tempo gioca a rugby. Sono diversi ma si cercano, sono fratelli. Ognuno continuerà ad amare le proprie cose. Insieme ameranno questo piccolo paese dove fino a pochi minuti fa non succedeva nulla. Sono passati 2 mesi più o meno da quando Stefano, il papà di Federico e Andrea, ci ha inviato questi 2 racconti. La mail risale esattamente al 5 di luglio. Un mese prima però io e tutte le persone che ascoltano questo programma lo avevamo già conosciuto, Stefano, quando in diretta ci aveva raccontato come si vive sotto una tenda nel giardino di casa propria dopo le scosse di terremoto del maggio in Emilia. La storia di Stefano parlava d'altro in realtà. Parlava di rugby, parlava della passione per quello sport. Durante la telefonata però non potemmo fare a meno di sentire come lui e la sua famiglia stavano vivendo quei giorni subito dopo il sisma. Ecco poi, più o meno come succede con tutti quelli che scrivono la loro storia e diventano parte di questo programma, non ci si sente più, oppure ci si manda qualche messaggio, qualche mail. Questa storia però non era del tutto chiusa, non lo era per noi che volevamo sapere come continuava la loro vita, e non lo era soprattutto per le storie di tutte quelle persone a cui è crollato il mondo intorno per colpa di una scossa di terremoto. E che quelle storie lì non possono finire, perché probabilmente cominciano proprio da lì, da quando il mondo si sbriciola e bisogna inventarsi tutto da capo. Dei terremoti però si parla tanto quando accadono, poco quando sono passati e per niente quando non si verificano. E io più o meno dei terremoti sapevo solo quello che provocavano, ma non che cosa sono. E quindi ecco qui. Brevemente, in geofisica i terremoti sono vibrazioni o oscillazioni improvvise, rapide, della crosta terrestre, provocate dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo. Quasi tutti i terremoti che avvengono sulla superficie terrestre sono concentrati in zone ben precise, cioè in prossimità dei confini tra una placca tettonica e l'altra. Secondo la teoria della tettonica delle placche, infatti, la superficie della Terra è modellata come se fosse composta da circa una dozzina di grandi placche tettoniche, che si muovono, sempre, molto lentamente. Ecco, il problema quindi non è tanto il terremoto in sé, il problema è trovarsi lì quando avviene. Come dire, la Terra da sempre fa un po' quello che le pare, e visto che noi ci siamo sopra, tocca adattarsi. I terremoti, insieme ad alcuni eventi meteorologici tipo le tempeste, gli uragani, sono forse una delle metafore più usate nella vita di tutti i giorni. La si usa per parlare di economia, di sport, di giustizia e ovviamente d'amore. Tutti hanno vissuto o almeno hanno usato il termine terremoto per raccontare di qualcosa che è finito bruscamente, magari all'improvviso, tipo di un matrimonio che collassa nel giro di pochi giorni, di un'azienda che fallisce, dello spread ovviamente che sale, di un caso di doping nello sport. Terremoto è il termine più usato per parlare di qualcosa che all'improvviso crolla e lascia macerie da cui ripartire. E probabilmente tutti noi, a pensarci bene, riusciamo ad individuare un momento. Quel momento preciso. Quello in cui le cose hanno iniziato a tremare e tutto intorno è cambiato. Sono cambiati i rapporti con le persone, con i colleghi, con i familiari, a seconda di che tipo di terremoto si è trattato. Non so se serva a qualcosa, ma a volerci pensare bene, quel momento lì, noi riusciamo a ricostruirlo proprio come hanno fatto Federico e Andrea. Riusciamo a riguardare e a ricordare quando le penne sul banco di scuola sono scivolate a terra, o quando la pallina di carta che volevamo lanciare da sola si è allontanata lungo il pavimento. Poi tutto il resto è tremore, paura, confusione, ma quel momento lì, l'inizio di tutto, non ce lo discordiamo di sicuro. Ecco perché, che si tratti di un sisma vero o di un terremoto in metafora, quella parola o quel numero o quel viso lì non lo dimenticheremo mai. E forse è giusto così, perché l'unico modo per ripartire è avere ben presente quando tutto è andato in pezzi. Fortunatamente non c'è stato nessun terremoto per noi del programma, solo un'estate in cui ci siamo fermati. Ma per iniziare questo secondo anno di Voi Siete Qui, abbiamo voluto prendere una storia che era iniziata proprio la scorsa stagione e ripartire da qui, come stanno facendo Stefano, sua moglie e i loro figli, Federico e Andrea. Bentornati. Sul profilo Twitter del programma Federico Zanardo scrive: smonto la cucina con mio padre in attesa di montare la nuova. Adesso però blocco i lavori per 40 minuti fino alle 16:45. Non so che lavoro tu faccia, Federico, non so se è un hobby o fai il falegname, però noi siamo tornati, siamo qui dalle 16 alle 16:45 tutti i giorni, da lunedì al venerdì. Qualcuno mi scrive invece che il racconto è un falso d'autore, perché neanche Montale a 9 anni scriveva così. 349-238-6666, è chiaro, chiunque tu sia, che racconto, come diceva Stefano nella sua mail, è stata una raccolta di testimonianza dei due protagonisti della storia, che sono Federico e Andrea, che sono i figli di Stefano e che sono al telefono, giusto? Pronto, Federico? No, sono Andrea. Ecco, Matteo. Lo sapevo, scusami. Quindi Andrea, tu sei quello più grande o quello più piccolo? Quello più grande. Sei quello più grande, quindi sei quello che gioca a rugby, giusto? Sì. Perfetto, e sei quello a cui piace la storia, giusto? Sì. Benissimo, ci ho beccato. Senti Andrea, partiamo da dove vi trovate in questo momento? Perché so che non siete a casa. Sì, siamo a un campo ATR insieme ai nostri amici. Un campo ATR? Sì. Che sta per? Azione Cattolica Ragazzi. Ah, scusami, ACR. Sì. Ah, io avevo capito, ATR come Torino, vabbè, a posto. Senti, che cosa fate esattamente lì? Giocate. Giochiamo, facciamo delle attività sempre insieme ai nostri amici, ci divertiamo in questo pseudo campeggio, perché è una casa quella in cui state in realtà. Sì, anche perché voi di campeggio, come mi dicevi prima fuori onda, praticamente ne avete fatta tutta l'estate, visto che siete rimasti in tenda nel vostro giardino. Ricordo velocemente, per chi non se lo ricordasse o per chi proprio non avesse sentito la puntata di giugno, come è probabile che sia, Federico, Andrea e la loro famiglia viveva perlomeno nel giardino di casa, sotto la tenda, giusto? Pronto, sì. Andrea? Sì. Sì, sì. Questo è durato fino a quando? Fino a quando siete rimasti in tenda? Siete ancora lì? Fino a quando non abbiamo deciso di tornare in casa, perché non avevamo più paura. Ah, ma quindi scusami, non c'è avete proprio deciso di tornare? Non c'era una, come dire, una legge o una... No, abbiamo deciso noi di nostra iniziativa. Senti, volevamo tornare in casa. Quindi voi avete fatto tutta l'estate, non siete andati in vacanza, non siete andati da un'altra parte, al mare, in montagna, dai nonni? No. Siete rimasti lì? Sì. Che cosa avete fatto tutta l'estate nella tenda del giardino? Allora, abbiamo chiamato i nostri amici, per esempio abbiamo tagliato le falciate di prato e ci siamo fatti un campo da calcio per giocare tutti insieme. Ah, ok, quindi gran calcio insomma, in sostanza. Sì, ma anche altri sport, giro in bicicletta. Giri in bicicletta, ma intorno alla casa, Andrea? No, per quello che rimane di noi. Ok, senti, c'è anche Federico, vero, lì vicino a te? Sì, sì. Me lo passi? Ok. Ciao Andrea, grazie. Pronto? Pronto Federico? Sì, sono Federico. Sei benissimo, io sono Matteo, quindi ci siamo. Senti Federico, tu sei quello a cui piace la matematica e balla l'hip hop. Sì. Ma tu hai 9 anni, Federico. Sì, ho 9 anni. Com'è che hai deciso di ballare l'hip hop, scusami? Vabbè, allora... Parte da lontano. Mio padre non mi ha costretto. Mi ha detto di fare degli sport. Non fare degli sport che fanno tutti. Sono proprio originale. Ok, e quindi tu hai scelto, cioè tra tutti gli sport tipo dressage, tiro con l'arco, tu hai deciso, non originali dico, tu hai deciso per l'hip hop. Sì. Ma e quando lo balli, quando lo pratichi? Lo pratico il mercoledì e il venerdì. No, certo, ma immagino che abbia delle date precise nella settimana, ma c'è una scuola, c'è un centro, andate in piazza a ballare? C'è vicino alla piazza, c'è una specie di casa grande, tipo un palazzo, dove ci sono tante danze, latinoamericano, tipo... Ma scusami, Federico, è una scuola comunque? Una scuola. Ah, ok. No, perché invece a Milano, se ti capita mai di venire quando sei più grande, in Corso Vittorio Emanuele, di fianco all'ex Burger King, cos'era, McDonald's, Burghi, ballano... No, non ballano solo latinoamericano, ballano proprio hip hop. L'hip hop è quello in cui giri sulla testa, fai quelle robe lì, giusto? Sì. No, quello è break dance. Quello è break dance, niente. Sì, non ci sto... Ma fai anche quella, o sbaglio? Sì, faccio hip hop e break dance. Benissimo. Ma adesso break dance ho smesso perché quello... che mi insegnava, dovevo studiare, allora no. Va bene, e quanto poco basta per rovinare la carriera a un giovane breakdancer. Senti Federico, ti ringrazio tanto per la storia e per essere stato al telefono. Salutami Andrea e continuate il vostro campo ACR. C'è una foto che trovate tutti i giorni sulla pagina di Voi Siete Qui, sul sito di Radio 24, quindi è facile, cercate radio24.it, Voi Siete Qui, ci trovate quello come che vi dicevo prima, pezzi della storia, le canzoni che mandiamo in onda, e ci trovate anche una foto. La foto che ci trovate oggi, se avete voglia di andarci, ha come protagonisti principali gli autori o i protagonisti della storia che avete sentito. Sono quindi Federico e Andrea. Federico ha 13 anni, Andrea ne ha 9. Qui riesco a capire meglio chi sono, perché sono uno più grande e uno più piccolo. Quello più piccolo, che non ricordo più se Federico o Andrea, comunque quello più piccolo ha la faccia furba, quello più grande ha la faccia più perplessa, diciamo, non meno furba, solo un po' più perplesso. Sono, credo, davanti a una tenda, perché alle loro spalle c'è un telo giallo. Hanno su una maglietta con sopra scritto 5.9 e tengono in mano, sapete, il Chuck del cinema, che dice 5.9. Chuck si trema. Adesso poi spiegheremo meglio che cos'è 5.9 e probabilmente lo faremo con la persona che conosce meglio di me questa associazione. Quello che vi dicevo prima però della parola del giorno, cioè la parola chiave della puntata di questa giornata, oggi è molto semplice. È molto semplice perché ce ne sono due possibili, che sono terremoto o scossa. Però ci piace l'idea di far diventare quasi come quel punto sulla mappa, la storia, la fotografia, anche la definizione della parola che definisce la storia. Una sorta di grande dizionario che alla fine avremo sotto mano, 215 parole che definiscono un po' il programma, un po' noi e un po' tutte le storie che abbiamo raccontato. In questo caso è molto semplice, dicevo, perché le parole chiave possono essere semplicemente o terremoto o scossa. Ve ne leggo una delle definizioni che prendiamo da un dizionario vero e proprio, adesso non ricordo qual è, non lo possiamo nemmeno dire, immagino, però è un dizionario della lingua italiana. Scossa, impulso violento che determina uno spostamento alterno, dare e ricevere una scossa, procedere a scosse o a sbalzi. Scossa sismica, appunto, scossa di pioggia, breve o improvviso rovescio, scossa elettrica, motivo di turbamento o addirittura prostrazione, questa è la seconda definizione. La morte della moglie è stata per lui una scossa, questi sono gli esempi. Scossarella o scossarella, scossetta, scossettina, scossone, proprio tutto. Etimo, femminile sostantivo di scosso, data, quindi risale al secolo XIV. Vorrei dire anche terremoto, ma andiamo, no, perché non ho abbastanza tempo. Non ho abbastanza tempo perché abbiamo sentito Federico e Andrea, e li abbiamo sentiti perché a giugno abbiamo raccontato una storia. Il protagonista di quella storia si chiamava Stefano ed è il babbo di Federico e Andrea. Pronto Stefano? Buongiorno Matteo. Come stai? Bene, bene, bene. Direi che stiamo vivendo il post-terremoto. E guarda, che già di per sé comunque è un terremoto. Lo immagino. Senti, ti chiamavamo ovviamente un po' per salutarti, un po' perché avevamo sentito i tuoi figli che sono in montagna sotto l'acqua, ma soprattutto per capire... prima di partire vorrei chiederti una cosa, perché forse Andrea si è spiegato non benissimo. Tu l'hai costretto a fare i pop? No, in realtà Federico gli ho solo consigliato scegliere un'alternativa ai soliti spot per avere un'esperienza maggiore. Qui da noi invece di usare il pallone, di usare le proprie gambe, okay, con un discreto successo, perché Federico tra breakdance e hip hop si è innamorato di questo, definiamolo sport. Anche se mi diceva che adesso breakdance non la puoi più fare perché il maestro deve studiare, giusto? Sono le cose dei piccoli centri che sono spesso legati ad una persona più che a una organizzazione, quindi basta che ne manchi uno e salta tutto. Esalta tutto, no? Senti, torniamo invece lì a casa vostra, cioè non più nel giardino, giusto? Siete rientrati in casa? Nel giardino, anche se la tenda l'abbiamo lasciata montata, perché non si sa mai. Mm-hmm. E fortunatamente meglio lasciarla, anche perché ieri una scossa ci ha ricordato che insomma la talpa è ancora sotto di noi. Quante scosse ci sono ancora? Tutti i giorni c'è una scossa? No, c'è stato un riposo una... Di un paio di settimane, poi ieri, domenica e l'altro ieri ci sono state due scosse che ci hanno un po' appunto non preoccupati, ma senza dubbio molto innervositi, ecco. Tra l'altro, guarda, noi per una curiosità ci siamo stampati una lista che abbiamo trovato su un sito che racconta, di fatto, io mi sono abbastanza impressionato quando l'ho vista, quanto la Terra si muova in continuazione dappertutto, non solo in Emilia, che si è mossa, diciamo, abbastanza forte, ma quanto la Terra sia continuamente in movimento. Dopo magari leggo alcuni dei casi per cui davvero nell'arco di un giorno ci sono 15-20 scosse, magari molto leggere, la magnitudo qua è, vedo, 1.8, 2.4, 2.3, Pianura Padana, Pollino, Cilento, Pollino, Isole Liparie, Pollino, Casentino, quindi insomma ho capito che veramente tutto continua a muoversi, lì chiaramente si muove in maniera un po' più brusca. Senti, però mi diceva, vabbè non ci provo più, uno dei tuoi due figli, che a un certo punto avete deciso voi di rientrare in casa. Sì, perché dovevamo vincere la paura. Noi siamo stati abbastanza fortunati, perché abbiamo avuto sì dei danni, ma dei danni non strutturali, quindi era da vincere la paura, e la paura si vince a piccoli passi, quindi siamo rientrati prima nel garage, mm-hmm, poi siamo entrati al piano terra, poi ora siamo al primo piano. Quanti piani ha la casa? Ne ha due. Ah, ok, quindi ancora al secondo, diciamo, quello prendete... In realtà abbiamo ancora un solo palco, ma quello non l'abbiamo ancora raggiunto, non abbiamo ancora arrivati all'ultimo livello, siamo... Senti, ancora in fase crescente. Stefano, invece com'è passeggiare per Novi? Cosa fa la gente? Ha ripreso a lavorare? È in casa? Non è in casa? Ci sono ancora situazioni molto gravi? La situazione a Novi, come del resto tutti i paesi che dell'Emilia, chi ha potuto ha ripreso a lavorare quasi subito, perché la rinascita nasce da queste cose. I centri, e Novi è uno dei più colpiti insieme alla frazione di Rovereto, sono effettivamente un disastro, sono abbandonati. Ora stiamo procedendo all'abbattimento di tutti gli edifici che non possono essere riparati. Stiamo sono tanti. Stiamo procedendo chi, scusami? Nel senso plurale maestà. Ah, okay, in realtà okay. Sta procedendo l'amministrazione tramite la Protezione Civile, okay, e i Vigili del Fuoco. No, te lo chiedevo perché so che tu fai parte di un'associazione che si chiama 5.9.org, giusto? Sì, abbiamo voluto giocare su questo nome perché la magnitudo 5.9 è stata quella che ci ha dato due pugni il 29 di maggio, e abbiamo deciso di fare appunto intersecata con il paese di Novi di Modena, abbiamo creato questo 5.9. Che cosa fate voi? Che cosa fate con l'associazione? In realtà noi come obiettivo primario sono ovviamente le scuole, cerchiamo di raccogliere fondi per adottando direttamente dei progetti per far sì che insomma la rinascita delle scuole sia migliore di quello che era anche prima del terremoto. Ok, perché scusami, prima fuori onda uno dei tuoi figli mi diceva che le scuole, che loro cominciano a metà settembre, giusto? Un po' più tardi degli altri. Credo che non ce la faremo, si parla probabilmente della prima settimana di ottobre. Ok, e le cominciano nei container o comunque non a scuola? Sì, ecco, container è una brutta parola, in realtà sono dei moduli provvisori, perché le scuole sono inagibili. C'è una scala che parte da e arriva a E per quanto riguarda le strutture, quindi la A non ha avuto niente e la E è praticamente inaccessibile. Le scuole di Novi di Modena e Rovereto sono F. Ok, quindi appena prima. Okay, non c'è nulla da fare. Senti Stefano, io ti ringrazio. C'è un'ultima cosa che volevo chiederti, perché mi ero molto appassionato al cineforum che facevate nel cortile di casa sotto la tenda. Lo fate ancora? Che film avete visto? Che film avete visto quest'estate? Pardon? Che film avete visto quest'estate? Allora abbiamo visto Il mio migliore amico. È quello francese? Yes. Ok. Poi sì. Dopo abbiamo visto i pinguini del, mi sembra, Dottor Popper, qualcosa del genere. Non sei preparatissimo sul cinema. Va bene, senti Stefano, io ti ringrazio moltissimo per averci mandato la storia ed essere stato al telefono. Ci risentiamo nell'arco della stagione per sapere come va. Grazie mille, ciao, ciao Stefano, grazie. Prima di chiudere, proprio a proposito di questo, visto che oggi parliamo di questo, abbiamo aperto così la stagione, la prima settimana di Voi Siete Qui, ne voglio leggere una mail che ci è arrivata durante quest'estate e che fa così. Caro Matteo e redazione, sono Emiliano di Modena per la precisione, dove il terremoto ha picchiato molto forte, tutti e forte. Io vivo a Milano da diversi anni, per amore e per opportunità lavorative. Un giorno però ti svegli e scopri che nel tuo giardino si è aperta una crepa larga un metro e profonda 8, che si è portata via anche la tua casa. Il resto è cronaca. Un giorno però in un paese del modenese particolarmente danneggiato, datore di lavoro e dipendenti insieme stavano montando un tendone gigante, mentre le rispettive famiglie preparavano un pranzo comune da mangiare tutti insieme. Il tendone sarebbe servito per far ripartire la fabbrica. Vitale per i padroni e gli operai, en plein air, anzi in dal curtil, come si dice qui. Da un computer partiva in filo diffusione il podcast del vostro programma. Saluto un amico che interrompe un momento la costruzione e si avvicina. Gli ho chiesto se ascoltavano anche loro Voi Siete Qui e che era anche il mio programma preferito. Lui mi sorride e mi dice: ci faceva compagnia prima e ci tiene su adesso. Ecco, questo è stato il culmine. Volevo semplicemente salutarti e ringraziarti. Francesco da Modena. Io invece ringrazio Francesco, ringrazio tutti quelli che hanno scritto al 349-238-6666 che si trovano ancora da quelle parti e che stanno cercando di rimettersi in piedi. Questa era la prima puntata di Voi Siete Qui, il programma parte oggi e continua. Io ringrazio Tiziano Bonini, Pietro Lacorte e Margherita Ina. Questa era la storia di Federico e Andrea e anche loro da oggi sono un punto rosso su una mappa. Sono Valentina, ho 24 anni, abito a Milano e sono l'autrice della storia che ascolterete domani. La mia storia parla di un avvenimento che mi è successo il 21 luglio 2007, quando il mio migliore amico ha ceduto il premio per ricevere il primo volume dell'ultimo libro della saga di Harry Potter.